Mia madre mi voleva fiscalista, invece io volevo fare l'artista. Ho dato un colpo al cerchio e uno alla botte, di giorno di rigo e canto la notte. La la la la la la la la la la la la la la, grazie, grazie.